GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La furia del vento sul Pordenonese, danni per centinaia di migliaia di euro ad agricoltura ed edifici. Incendi, piogge scarse sui fronti del fuoco, i danni all'ambiente in carso, i rischi per la salute. In aula la manovra estiva, 800 milioni per la ripresa, dice la maggioranza, opposizione critica. Nuovi contagi in calo, ma ieri sono stati 8 i decessi e cresce la pressione sugli ospedali. Varsila oggi vertice al Mise sullo stop produttivo di Trieste, preoccupazione alla Tirso di Muggia. 45 giorni in più per la ciclabile di via Cividale a Udine e i portici del teatro saranno chiusi. A Grado la friulana d'adozione Alice Cantabattiato, Paolina Pulfero, Emanuele Agnelli a Gradisca. 7:19 minuti di mercoledì 27 luglio, buongiorno da Livia Liberatore, Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 6 a Trieste 24 gradi, mare mosso con temperatura di 27 gradi, a Pordenone e Gorizia 22 gradi, a Udine 25, a Sappada 13 gradi, a Forni di Sopra 14, sul Piancavallo 15 gradi, a Tarvisio 16 gradi, a Tolmezzo 19, sul Monte Lussari 10 gradi e 5 decimi, sullo Zoncolan 12, sulla costa Grado 25 gradi, a Lignano 26 gradi e mezzo, temperatura del mare nelle due località 26 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA regionale per oggi: su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso, sulla zona montana cielo in genere variabile, al pomeriggio saranno possibili locali rovesci o temporali, specie sulla zona montana, ma che potranno anche interessare l'alta pianura. Sulla costa soffierà bora moderata, specie al mattino, farà caldo, specie in pianura, nel pomeriggio. Apriamo con una notizia di cronaca arrivata nella notte: un uomo di 28 anni originario del Burkina Faso, residente a Spilimbergo, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto alle 21 a San Giorgio della Reichenwalde. Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri di Spilimbergo. L'uomo ha perso il controllo della propria moto ed è finito fuori strada in una vigna. Il decesso è avvenuto all'istante. Sul posto anche l'equipe medica dell'elisoccorso notturno e i vigili del fuoco. Ed ora parliamo del maltempo. Nel Pordenonese tromba d'aria, raffiche di vento dalla velocità record, alberi caduti, tetti scoperchiati nella notte tra lunedì e ieri, un vento da record che ha piegato l'agricoltura in diverse zone del Friuli occidentale. Vigneti con interi filari a terra, mais distrutto, kiwi irrecuperabili. A San Quirino quel che resta del passaggio della tromba d'aria sono intere coltivazioni devastate. 100%, anzi direi di più, perché qui abbiamo danni anche per il prossimo anno, qui non si recupera niente. Qui bisogna raddrizzare tutto, tirare su tutto e sperare che, ripotando a zero, di avere un po' di vegetazione per il prossimo anno, ma il prossimo anno già la produzione è compromessa. Per il prossimo anno, dico, quest'anno non ne parliamo neanche. A Roveredo in Piano sono stati danneggiati edifici comunali, una palestra e diverse abitazioni. Per la prima volta nella mia vita mi ha preso proprio qui. Sì, proprio sono rimasta scioccata quando sono venuta a vedere. Paolo Nadal, sindaco di Roveredo in Piano. I danni sono ingenti, sia la viabilità, che è stata ripristinata grazie all'intervento dei volontari della Protezione Civile, che dei vigili del fuoco. Comunque ci sono danni alle abitazioni, ci sono molti alberi caduti e ci sono danni anche agli edifici comunali. Adesso bisogna, con bocce ferme, come si suol dire, fare un po' il punto della situazione e poi rapportarsi con gli uffici regionali e capire il proseguo. A Vivaro è stata registrata una raffica di vento a 136 km orari. A Fontana Fredda ingenti danni alle coperture di case e aziende. Tanto vento, è venuto giù tutta la guaina di protezione e l'isolamento. È portato via la parabola, l'antenna, tutto. Non c'è più niente sopra. C'è il problema di tornare a ricoprire. E con che cosa ricoprire? E i costi sono anche cari, qualcuno che ci dice stanno i 200.000 euro. Il problema maggiore che adesso abbiamo è trovare materiale. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sul fronte incendi, i focolai del Carso Giuliano sono ormai sotto controllo, ma si teme per il vento in arrivo nei prossimi giorni. È stato il più grande incendio di quest'area, con danni all'ambiente che saranno recuperabili solo in tempi lunghi. E ci si chiede cosa fare per prevenire con più incisività il verificarsi di nuovi simili eventi. L'emergenza non è finita. Nelle zone italiane interessate dal maxirogo della scorsa settimana è piovuto molto meno rispetto alla costa e i focolai sono sotto controllo, anche se ogni tanto si riattivano, venendo però domati senza grossi problemi. Si teme però il caldo e il vento in arrivo della prossima settimana, con gli incendi nel resto della regione, eventuali interventi aerei potrebbero non essere così tempestivi come invece sarebbe necessario. Anche per questo è difficile venga riaperto il vallone nel tratto ora chiuso tra Amiano e San Giovanni di Duino. La strada è perfettamente sicura, ma serve per il coordinamento dei soccorsi fino a quando il rischio di nuovi roghi non sarà praticamente nullo. Intanto si comincia a pensare agli effetti di quello che è stato l'incendio più grande della storia recente del Carso Giuliano. Giovanni Baccaro, professore botanica ambientale, UNITS. All'incirca sono andati bruciati 1.000 ettari di territorio. Di questi 1.000 ettari di territorio si parla soprattutto di aree boscate con boscaglia carsica, con pinete e anche allanda carsica. I tempi di recupero della vegetazione potrebbero andare tra i 10, 15, anche 20 anni. Dipende un po' proprio da quelle che sono le condizioni anche climatiche che avremo in questo lasso di tempo. Per quello che riguarda gli animali invece non sono state trovate carcasse, segno che la fauna sia in larga parte sopravvissuta. C'è da capire se resterà in zona. Paolo Benedetti, coordinamento Corpo Forestale Regionale. Sono stati fatti dei recuperi di fauna anche dalle nostre ditte convenzionate con la regione, ma non grandissime cose. Sarà da vedere sui branchi di sciacalli che erano qua più o meno stanziali in zona, vedere come hanno reagito a questa disgrazia. Cinghiali, caprioli sono in buona parte riusciti anche a superare l'emergenza, resta il problema della microfauna, dei rettili, degli anfibi e probabilmente in parte anche degli uccelli nidificanti. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La situazione degli altri incendi attivi in regione sotto controllo: l'incendio della Val Resia, le squadre dei vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di bonifica e svolgono regolarmente giri perlustrativi nella zona. Resta grave la situazione sulla strada provinciale di accesso alla valle a causa della caduta massi. Da questa mattina la strada resterà chiusa, non si potrà transitare neanche tramite staffetta con scorta della Protezione Civile, come si poteva fare nei giorni scorsi. E dall'assessore con delega alla Protezione Civile Riccardi anche un ultimissimo aggiornamento sulle operazioni di bonifica che sono in corso a Medea e Amiano, a Frisanco e Clauti. I roghi, fa sapere, sono sotto controllo. C'è ancora un elicottero attivo in Varresia e uno a Taipana. E dai roghi dei giorni scorsi, con fumi e aria talvolta irrespirabile, potrebbero venire anche serie conseguenze per la salute. A dirlo gli pneumologi. Secondo alcuni studi, l'inalazione concentrata di polveri sottili potrebbe causare un aumento di eventi acuti cardiovascolari. Sono rientrati tutti nella norma, sotto il limite di 50 microgrammi per metro cubo, i valori di PM10 in regione dopo gli sforamenti dovuti agli incendi di settimana scorsa. Lo certificano tutte le centraline fisse e mobili a controllo industriale dell'ARPA. Ma qual è l'effetto sulla salute di chi è stato esposto per diversi giorni ad elevati livelli di polveri sottili? Come indica l'allergo pneumologo Mario Canciani, a livello scientifico ci sono più studi sugli effetti di tipo cronico, cioè di lunga esposizione, rispetto alle condizioni acute per esposizioni di breve periodo. Gli effetti acuti colpiscono però di più il sistema cardiovascolare. Mario Canciani, allergo pneumologo, presidente regionale dei Medici per l'Ambiente, ISDE. C'è uno studio recente su neurologi che dice che aumentando le polveri sottili del 2,5, quindi polveri sottili di 10%, c'è un aumento appunto del 10% di ictus e emorragie cerebrali. Uno studio del 2017 dell'ARPA della regione Friuli Venezia Giulia aveva evidenziato proprio nel Monfalconese che aumentando di 50 microgrammi per metro cubo le polveri sottili c'era un rischio raddoppiato di infarto, soprattutto nelle donne con più di 65 anni. Vincenzo Patruno, primario di pneumologia a Udine, sottolinea come il particolato degli incendi sia più sottile del PM10, ovvero 2,5 micron, un ventesimo di un capello umano, e quindi ancora più insidioso perché può raggiungere il polmone profondo, gli alveoli. Cito uno studio californiano effettuato in una zona soggetta ad incendi. È stato notato come ad un aumento di PM2.5 di 10 microgrammi per metro cubo sia corrisposta una crescita dei ricoveri per motivi respiratori dall'1 al 10%. Non stupirebbe, conclude Patruno, un aumento degli accessi nei pronto soccorso anche nelle aree più colpite della regione. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli incendi che hanno devastato il Carso in questi giorni hanno toccato anche alcune zone di interesse storico che oltre un secolo fa furono teatro degli aspri della Grande Guerra. In alcuni siti dalle ceneri stanno emergendo testimonianze fino ad oggi nascoste dalla vegetazione. Arupa Kupa non è il nome di una tribù indigena, è invece la collina che da Doberdò si erge verso Monfalcone, intaccata dall'incendio in diversi punti. Per i suoi sentieri si arriva alla storica quota 144, dove svetta il cippo dedicato al Genova Cavalleria e Piemonte Reale, che sono stati lambiti dalle fiamme, e dove si trova la lapide dedicata a Paride Razzini, che morì conquistando la cima il 16 settembre 1916 alla guida del 3° e 9° battaglione dei bersaglieri cittadini. Lo storico Lucio Fabi. Razzini è importante perché fu l'ufficiale che aggregò Enrico Totti al suo reparto e lo portò a combattere a quota 85, poco lontano da qua, sopra Monfalcone, dove Enrico morì il 4 agosto 1916 in un contrattacco, dando origine alla costruzione mitologica di un personaggio che sopravvive ancora oggi. E l'incendio ha toccato anche il monte Cremeniac, dove si trova un importante osservatorio interrato, prima austriaco poi italiano, che venne pluribombardato anche con i poderosi pezzi da 350 e 420. Uno di questi, rimasto nascosto fino ad oggi, è stato fatto esplodere dalle fiamme di questi giorni e ha lasciato un cratere di 7 metri per 4. Ancora più desolante il panorama sulle pendici di Zerie, poco oltre il confine, dove sono riaffiorate trincee, postazioni e rifugi. In queste zone si combatterono le battaglie più dure. La 10ª e 11ª battaglia dell'Isonzo, combattuta qui, volle lo sparo di un numero enorme di proiettili e di tutti i calibri. In queste due battaglie vennero esplosi più proiettili che in tutto il resto della guerra. Doberdò del Lago, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. I presidenti delle 5 regioni italiane che hanno dichiarato lo stato di emergenza per la siccità, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia, Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto sono stati nominati commissari delegati per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal capodipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio per fronteggiare la situazione di deficit idrico e avviare le prime misure urgenti per scongiurare nell'immediato l'interruzione del servizio idrico. È la finanziaria estiva più ricca di sempre, quella che si sta valutando in Consiglio regionale. Oggi scade la presentazione degli ultimi emendamenti e si conoscerà la cifra precisa dell'assestamento di bilancio che ha raggiunto gli 800 milioni. Ultime ore per definire gli emendamenti all'assestamento di bilancio, che è già molto ricco. 800 milioni, oltre il doppio dei 370 dell'anno scorso, e la somma andrà aggiornata dopo le ultime modifiche. È l'ultima grande distribuzione di risorse prima delle elezioni regionali, se si esclude la finanziaria di fine anno. Per i consiglieri di maggioranza è un'occasione per dare una risposta alle richieste dell'elettorato. Mauro Di Bert, Progetto FVG. Una considerevole cifra messa a disposizione che serve non soltanto per consolidare ma addirittura per rilanciare una quantità di settori incredibili sul nostro territorio regionale che vanno al mondo dell'impresa, all'energia, allo sport, alla cultura, alla sanità. Giuseppe Nicoli, Forza Italia. Come gruppo di Forza Italia abbiamo presentato degli emendamenti a sostegno delle associazioni sportive e dilettantistiche, abbiamo presentato degli emendamenti a sostegno anche di chi ha problemi di vista con gli emendamenti della collega Piccin, abbiamo presentato altri emendamenti a sostegno delle attività produttive. L'opposizione parla di mance elettorali e di una mancanza di visione. Cristian Sergo, Movimento 5 Stelle. Ci sono due prospettive, c'è quella della maggioranza che guarda al domani perché ovviamente ha intenzione di vincere anche le prossime elezioni regionali. Noi guardiamo a un tempo molto più ampio, 10, 20, 30 anni per dare effettivo benessere per i nostri cittadini e per le nostre imprese. Massimo Morituzzo, Patto per l'Autonomia. Una manovra di cortissimo respiro, risorse importantissime che non si vedevano da decenni in Friuli Venezia Giulia. Potrebbero essere utilizzate davvero per cambiare un paradigma di sviluppo agli occhi anche quello che sta succedendo dal punto di vista ambientale, climatico, e invece vediamo che vengono disperse in mille rivoli. In mattinata il Consiglio ha reso omaggio a Elena Loduca, la volontaria della Protezione Civile Regionale schiacciata mortalmente da un albero durante la bonifica di un incendio. Giovedì mattina, in occasione del suo funerale, l'aula si fermerà. Intanto sotto il palazzo si è svolta una manifestazione di protesta dei sindaci di Rigolato e Trepoli Gosullo. Denunciano di essere gli unici due comuni carnici fuori dai tre poli montani. Sono stati ricevuti nel pomeriggio dal presidente Piero Mauro Zanini, da capigruppo, e dall'assessore Sergio Bini in rappresentanza della giunta. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo dell'avvertenza Varsila. Alla vigilia del tavolo di oggi al Mise, il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha rivolto un appello al Parlamento a congelare l'iter di adesione della Finlandia alla NATO finché non si apra un tavolo sulla decisione del gruppo di centralizzare in Finlandia la produzione di motori a quattro tempi, cessando l'attività produttiva del sito di Bagnoli della Rosandra. Lo stop mette a rischio il lavoro di 450 addetti sui circa 970 occupati. Secondo i piani del gruppo, il sito triestino si concentrerà su ricerca e sviluppo, vendita, assistenza, formazione e progettazione. Non ci si può fidare di un'azienda che fino al giorno prima ha assicurato non solo il mantenimento degli impianti, ma ha prospettato nuovi investimenti e crescita della produzione, ha detto ieri Fedriga, ospite su una TV nazionale, ribadendo che la regione inizierà una trattativa soltanto se viene ritirata immediatamente la procedura. Il tavolo si terrà oggi alle 15 a Roma, presenti il ministro delle attività produttive Giorgetti, rappresentanti dell'azienda, regione, Confindustria, sindacati e RSU. C'è preoccupazione anche per il futuro dei 270 lavoratori della Tirso di Muggia, che denunciano il rischio di un effetto domino di crisi aziendali nel territorio triestino. L'azienda ha infatti comunicato a tutti i lavoratori che, come conseguenza della costante e incontrollata crescita dei costi dell'energia a livelli insostenibili, la società si vede costretta a prolungare, rispetto a quanto previsto, il periodo di fermata estiva. Abbiamo chiesto a Filippo Caputo del sindacato FESIC Confsal perché i lavoratori sono preoccupati. La Tirso a Trieste è chiaro che ha 270 dipendenti e questi 270 dipendenti hanno un costo rilevante, e siccome c'è l'aumento dell'energia e tutta una serie di cose, è chiaro che con bollette che ci ha fatto vedere che arrivano a 1.500 e a 1.500.000 al mese, è chiaro che a lungo andare non ci stanno dentro quei costi, e quindi hanno cominciato con dire intanto facciamo un po' di ferie forzate e tutto agosto l'azienda verrà chiusa. Poi al rientro si vedrà come sta andando l'andamento, ma se sarà questo è chiaro che si comincia a parlare di cassa integrazione, e poi dopo la cassa integrazione sa benissimo che viene una riduzione d'orario e di dipendenti, insomma. E quindi un'azienda con 270 famiglie è chiaro che siamo in pensiero, perché vediamo quello che sta succedendo in zona industriale, non è la nostra azienda l'unica che ha dei problemi di questo tipo, ecco. È un problema di breve periodo legato all'aumento dei costi delle bollette oppure si trascina da tempo? No, guardi, è proprio di questo momento, perché l'azienda sta andando benissimo, ha grande lavoro, e come dicevo, loro hanno questo gruppo, la Cina va benissimo, in Turchia va bene, in Portogallo va bene, è qui che c'è un aumento esponenziale dei costi e quindi è qui il punto debole del gruppo. E quindi, sa, quando c'è un punto debole in un gruppo è chiaro che quel punto debole sta in pensiero, ecco. Fincantieri ha approvato i conti semestrali al 30 giugno, i ricavi sono in crescita del 16%, risultato netto negativo per 234 milioni, era positivo per 7 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso. Il dato risente di vari fattori, tra cui una review del portafoglio di business e poi della valutazione degli effetti dei maggiori prezzi delle materie prime sui costi delle commesse. Il margine operativo lordo è pari a 90 milioni di euro, la posizione finanziaria netta a debito per 3.296 milioni. Nei sei mesi sono state consegnate 8 navi da 5 stabilimenti ed altre 5 navi da crociera sono previste entro l'anno. Si manifestano i primi segnali di ripresa degli ordinativi del settore croceristico. In luglio è stato firmato un accordo per 2 navi da crociera alimentate a idrogeno e un contratto per una unità extra lusso. Oggi a Ronchi dei Legionari, assemblea congressuale straordinaria di AICRE Friuli Venezia Giulia, l'associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, in vista della 17ª assemblea nazionale che si terrà a Bologna a settembre. Nella sala polifunzionale di Via Duca d'Aosta alle 17 si inizierà con la relazione del presidente Franco Brussa, che parlerà della vita dell'associazione alla luce dei tanti avvenimenti che coinvolgono le politiche comunali e regionali in riferimento alla programmazione europea, senza dimenticare la guerra in Ucraina e i suoi effetti. Verrà anche illustrato un documento politico da presentare all'Assemblea nazionale per poi passare all'elezione dei delegati regionali all'Assemblea nazionale e alla designazione dei rappresentanti della Federazione regionale in seno al futuro Consiglio nazionale e alla Direzione nazionale. In regione, AICRE conta l'adesione di quasi la metà dei comuni, ben al di sopra di tutte le altre federazioni. A Udine proroga di 45 giorni per la chiusura del cantiere della ciclabile di Via Cividale. A comunicare lo slittamento della conclusione dei lavori è stato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini. L'allungamento dei tempi di cantiere, ha spiegato, è dovuto a problematiche emerse in corso d'opera, da cui però sono derivati interventi migliorativi della ciclabile ancora in corso di realizzazione nell'ambito del progetto Experimental City, che collegherà Piazzale Oberdan al centro intermodale di San Gottardo. I nuovi interventi del valore di 112.000 euro verranno finanziati attraverso i fondi derivanti dal ribasso d'asta. Dalla giunta anche la decisione di procedere con una chiusura notturna provvisoria degli accessi del portico vetrato del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, divenuto da tempo riparo notturno per alcuni senza tetto, che saranno temporaneamente accolti nella sede dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Piazza Unità d'Italia. In seguito saranno realizzate delle vetrate di chiusura. E ora l'andamento della pandemia in regione, ancora in diminuzione. Ieri nuovi casi di infezione da coronavirus, ma cresce la pressione sugli ospedali con un numero insolitamente alto di decessi registrati nelle passate 24 ore, ben 8, 4 a Udine, 2 a Pordenone, 1 rispettivamente a Gorizia e a Trieste. I nuovi contagiati sono stati ieri 2.529, l'incidenza di nuovi casi per 100.000 abitanti in una settimana scende a quota 983. Sono stati analizzati più di 11.800 tamponi con un tasso di positività aumentato a oltre il 21%. Una persona in più a ieri ospitata in terapia intensiva per un totale di 5 pazienti, cresciuto di 17 unità, arrivato così a 321 il numero di pazienti positivi ricoverati negli altri reparti ospedalieri. Prima tappa del nuovo laboratorio triestino sulla sostenibilità quantitativa pensato dalla FIT e dall'OGS, una 4 giorni per riflettere sul contributo della scienza di base per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile. Una quarantina di accademici si sono riuniti presso la sede dell'ICTP a Miramare per parlare di ecologie umane. Far dialogare discipline diverse come l'ecologia, la fisica, la biologia con le scienze più umane come l'economia o l'antropologia per definire un'agenda di ricerca su come le scienze di base possono contribuire allo sviluppo sostenibile. Uno degli esperimenti proposti nell'anno internazionale della scienza di base per lo sviluppo sostenibile, proclamato dalle Nazioni Unite, parte proprio da Trieste, espressione della vocazione internazionale del sistema scientifico. Una sfida lanciata dalla Laboratorio Triestino sulla sostenibilità quantitativa del FIT, in collaborazione con il Centro Internazionale di Fisica Teorica, il Santa Fe Institute e la SISSA. Il fisico Matteo Marsili cita l'esempio delle difficoltà dei biologi che stanno sviluppando dei batteri che inibiscono la CO2. Il loro problema principale è che, la difficoltà di parlare con i climatologi, per differenza di linguaggio, differenza di linguaggi che si usano, ma anche linguaggi di programmazione che si usano. Quindi promuovere questa interazione tra le varie discipline è una cosa, secondo me, abbastanza importante. L'approccio multidisciplinare diventa fondamentale anche per prevedere situazioni di siccità, di mancanza di cibo e di povertà. Elisa Omodei dell'Università dell'Europa Centrale di Vienna. L'insicurezza alimentare è un fenomeno molto complesso, per cui abbiamo da un lato i dati di tipo economico e dei prezzi dei vari tipi di cibo, abbiamo dati sui conflitti e sulle morti dovute a conflitti e poi il terzo tipo di dati molto importante sono appunto dati invece di clima. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo sport, calcio, occhi, cuore, Pordenone, lo slogan della campagna abbonamenti della società Nero Verde. Con tempistiche ancora non certe dei lavori a Fontana Fredda, la società ha attivato un abbonamento per le prime 9 gare di campionato, indipendentemente dallo stadio in cui saranno disputate. Sarà quindi una campagna a passi con vantaggi poi per l'acquisto delle successive 10 gare. Avvio delle sottoscrizioni domani dalle 17 alle 20 al centro sportivo De Marchi. Calciomercato in Serie C, la Triestina che ha ingaggiato Simone Andrea Ganz, figlio di Maurizio Ganz, ex attaccante tra le altre di Milan e Inter. Il centravanti genovese classe 93 approda al club giuliano a titolo definitivo, ha firmato un biennale. Prodotto del settore giovanile del Milan e capocannoniere con la primavera del 2012-13 con i rossoneri, esordisce in Champions League nel 2011. Nelle ultime 3 stagioni ha militato in Lega Pro con Como, Mantova e Lecco. Il tennis, completati gli incontri di primo turno del tabellone principale all'ITF V60 Cordenons Internazionali Friuli Venezia Giulia Serena Wines. Nell'ultimo match in programma sul campo centrale ieri la slovena Veronika Erjavec, finalista della scorsa edizione, si è imposta con una rimonta in 3-7 sull'italiana Anna Turati. Camilla Rosatello ha battuto la slovacca Timea Jaruškova, vittoria in 3-7 per Matilde Pauletti, che ha superato in rimonta Daria Stakova. Prova convincente anche per Nuria Brancaccio, che ha superato la croata Fett nel derby azzurro. Disco verde per Angelica Moratelli, che ha superato Bianca Turati. Oggi a partire dalle 11 gli incontri di secondo turno, da segnalare le sfide Udvardi Pieri e Brancaccio Frukvirtova. Sul palco del Grado Festival, ospiti d'autore sulla riga Nazario Sauro, salirà oggi la cantante Alice, nome d'arte di Carla Bissi, musa ispiratrice del compianto maestro Franco Battiato, al quale dedicherà il suo omaggio musicale dal titolo Alice canta Battiato. Nel 1981, con la canzone Per Elisa, che stiamo ascoltando, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista-compositore Giusto Pio, vinse il Festival di Sanremo. Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice, che sul palco di Grado sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato. Il maestro ha avuto sempre un legame particolare con l'isola di Grado, alla quale ha dedicato la canzone Scalo a Grado. E la sesta giornata di Mittelfest inizia con il gioco musicale offerto dal Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine nel concerto Impreviste Eufonie nella chiesa di San Francesco alle 19:30. Si conclude con le onde sonore della Friuli Venezia Giulia Orchestra, appuntamento al Convitto Nazionale Paolo Diacono alle 22 per un viaggio nella cultura musicale italiana e austriaca. A dirigere il direttore austriaco con Michael Leschi e al violino Massimo Quarta, vincitore a soli 26 anni del primo premio al concorso internazionale di violino Niccolò Paganini di Genova. All'Arena del Castello di Gradisca di Sonso, il Festival Onde Mediterranee entra nel vivo dei concerti. Alle 21:30 il concerto di Manuel Agnelli, di cui stiamo ascoltando il brano La profondità degli abissi. Cantatore, musicista, produttore discografico, autore, fondatore e frontman degli After Hours, Agnelli porterà a Gradisca il suo nuovo progetto solista, che precede l'uscita, prevista alla fine di settembre, del suo nuovo album Ama il prossimo tuo come te stesso. Tornare dal vivo con un progetto solista, ha detto Manuel Agnelli, è un'esperienza intensa che rilega in un volume biografico musicale passato, presente e futuro. E all'Arena del Castello, dalle 17:30, anche laboratori, conversazioni, stand e cucina naturale, alle 18:30 in Corte d'Aviano, nuovo incontro di lettere mediterranee in collaborazione con Dialoghi Festival Itinerante della Conoscenza. La giornalista e scrittrice Giovanna Casadio dialoga con la sindaca di Gradisca, Linda Tomasinsig, e con Antonio De Nicolo, procuratore della Repubblica di Trieste. Questa sera a Gorizia si terrà l'incontro Ucraina, ne sappiamo abbastanza, con Gianluca Sardelli, goriziano, console onorario d'Italia a Leopoli, in Ucraina, dove opera da oltre 30 anni, per parlare della situazione nel paese vittima dell'aggressione russa, alle 20:30 alla parrocchia di San Rocco. Il teatro nella Grotta di Antro, in comune di Pulfero, doppio spettacolo di Marco Paolini, alle 15:30 e alle 19:30 metterà in scena il suo nuovo lavoro Antenati, che ripercorre l'evoluzione della nostra specie attraverso l'incontro immaginato con i nonni dei nonni, con le 4.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, quel nucleo africano da cui tutti gli abitanti del pianeta della nostra specie provengono. Lo spettacolo si svolge nell'ambito della rassegna Estate in Antro a cura dell'associazione Tarcetta. I giornali di oggi: Fedriga, crisi Varsila, l'Italia fermi Helsinki, è l'apertura del Piccolo di Trieste. Il presidente della regione chiede al Parlamento di congelare l'iter di adesione alla NATO. Oggi il tavolo al Mise. Nella fotonotizia: la pioggia non basta, resta l'allerta sugli incendi. Sulla destra la cronaca: dalla tassa di soggiorno in arrivo 3 milioni per grandi eventi e musei. Poi la notizia sulla finale del Giro d'Italia a Trieste: la città si attende incassi milionari, con 100.000 presenze e 170 paesi davanti alla TV. E poi, da Barcola al Ciglione, l'invasione degli insetti di nome Orius. Sul fondo due storie, quella del pizzaiolo stellato che fa gustare l'oro e quella di Hamza, giovane matematico algerino a Trieste. Ferie lunghe in fabbrica per risparmiare energia, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Nella fotonotizia: la siccità dal Natisone al Cormo ormai così asciutti. In prima anche il caso di una nuotatrice minorenne che accusa l'istruttore, ora indagato per abusi. Gli incendi con 7 ettari a fuoco sul Gran Monte. Poi l'apertura di un'inchiesta sulla morte di Elena Loduca, la poliziotta morta mentre lavorava per contenere l'incendio di Prepotto. In taglio alto le multe all'azienda sanitaria Friuli Centrale Occidentale per la violazione della privacy dei dati dei pazienti, la rabbia dei sindaci di Rigolato e Treppoli Gosullo, incatenati davanti alla regione a Trieste perché non inseriti tra i poli turistici. In taglio basso, le 200.000 persone attese a Lignano domani per l'air show delle frecce. Sul Gazzettino, in apertura e nella fotonotizia, i danni del maltempo. In basso, la decisione di chiudere i portici del teatro di Udine senza tetto e la multa all'ospedale per la violazione della privacy sui dati. Capitale europea, Gorizia si sveglia e dimostri unità, è il titolo di apertura del Piccolo di Gorizia e Monfalcone. L'appello di Petiziol serve una risposta della città, tra i nodi il direttore di Go 25, la sede e il personale. In alto nella foto di prima pagina il carso bruciato, la pioggia non basta. Sulla destra la cronaca da Monfalcone, il pronto soccorso dell'ospedale San Polo è al collasso, il direttore di Asugi Poggiana vuole ampliare gli spazi. Poi l'investimento di SBE Varvit, nuovo stabilimento da 30 milioni ad Acerra. Sul fondo la mostra la Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone, vedute pennellate aeree, poi il tuffo nella città sulla scia di Tullio Crali. Ma il tempo è in apertura anche sul Gazzettino di Pordenone, vento e grandine, notte da paura, capannoni allagati e senza elettricità, le testimonianze dopo la tromba d'aria dell'altra notte, la richiesta dei comuni per lo stato di calamità. Di spalla alla politica, collegi elettorali, Pordenone vota con la Carnia, in taglio basso rifiuti nei cassonetti della carta, il comune perde soldi. Poi la privacy dei pazienti violata a Pordenone come a Udine, sanzione all'ospedale. Sul Messaggero Veneto maltempo, in 12 minuti danneggiati 4 comuni, poi lavoro nero, scoperti 4 invisibili dalla Guardia di Finanza, Sacile prenota la visita oculistica, gli dicono torni nel 2025. SOS Acqua a San Vito, la prima cisterna è disponibile da oggi, in alto la multa all'azienda sanitaria sul mancato rispetto della privacy e il no di Maniago al maxi impianto fotovoltaico. Unanimità in consiglio. Infine, sotto la curiosità, striscia continua davanti a casa, odissea per uscire. In chiusura uno sguardo ai programmi. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica In Friulano Vueo Fevelindi parlerà della prima alleanza tra il mondo agricolo e il mondo venatorio e della gestione faunistica per salvare campagne, città e strade dall'assedio della fauna selvatica. Alle 11.20 la seconda puntata della nuova serie di Con le mani, con i piedi, con il cuore, che oggi ospita spazi creativi per macinare idee. I programmi regionali tornano poi alle 14. In regia Andrea Fontanot e Riccardo Ostojic. In redazione ha collaborato Samantha Gon, da Livia Liberatore Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.